Sono con Lorenzo Bazzocchi, giovedì 2 dicembre ad Atelier Sì in via San Vitale alle 19:30 va in scena Kivia, l'ultimo lavoro della compagnia Masco Teatro. Di cosa parla questo spettacolo, Lorenzo? Diciamo, Kiva innanzitutto è il nome che gli indiani Hopi, una tribù di indiani Pueblos del New Mexico, dava ad una camera sotterranea che veniva creata per addomesticare i serpenti vivi catturati nel deserto. Praticamente gli indiani Hopi, nella mitologia degli indiani Hopi, è valido il concetto che una figura animale possa fare da tramite per ottenere ciò che, diciamo, nella scienza, col principio causale, da certi assiomi si possa giungere a delle conseguenze. Quindi per loro è proprio nella mitologia e nella quasi, diciamo, nella tenacia della magia che cercano di ritrovare le forze per mutare o per condizionare anche gli andamenti, in questo caso meteorologici. Gli indiani Hopi vivono nelle mese, quindi in queste tavolate aride e desertiche, e hanno bisogno assolutamente che nelle stagioni estive possa piovere per la loro sopravvivenza. Quindi questa attiva viene visitata da Abi Warburg, che è uno storico dell'arte tedesco, 1896, e ne fa in qualche modo il punto cruciale di tutta la sua analisi storiografica. Abi Warburg è forse uno dei massimi conoscitori del nostro Rinascimento, e lui legge comunque le immagini da un punto di vista, diciamo così, dalla potenza psichica, e in questo senso rimanda pienamente ai concetti freudiani di rimosso e ritorno del rimosso. Ecco, su questa duplice congiunzione, quindi un passato che ritorna molteplice nel presente, sotto forma anche incognita, si basa tutto diciamo, il teorema che utilizziamo nella nostra indagine sul movimento. Questo è Kiva, è uno spettacolo teatrale, viene visto da un punto di vista drammaturgico, ma essenzialmente è, come dicevo, una indagine su come si possa ritornare su se stessi, quindi vincere lo spettro, diciamo, della ripetizione, modificando costantemente e mettendo in atto dei principi, diciamo così, di differenziazione dell'azione, una parcellizzazione. Fin dei conti, chi vede si trova di fronte, anche se ho parlato di drammaturgia, ad una coreografia, io direi, anche se non voglio essere pretenzioso, raffinata, nel senso che la figura, il performer, agisce non certamente da un punto di vista mimetico, quindi la figura del serpente che è fondamentale per la sussistenza, diciamo, del rituale che viene messo in campo dall'indiano Hopi. Certamente non è questo il riferimento, anche se la figura serpentiforme, poi diciamo che lo stesso indiano Hopi vede nel fulmine portatore poi delle piogge, è qualcosa che è entrato anche nel nostro inconscio e naturalmente nella partitura che mette in campo la danzatrice c'è questa sorta di anelito, trovare forse le medesime inconsistenze un nascondimento che il rettile riesce a mettere in atto prima di semmai di balzare, di colpire, un ritorno come fosse una voluta su se stessa per procedere poi oltre. Una sorta di macchinario umano, quello che viene messo in campo, come ultimo non lo si possa vedere altro che come un lancio di se stessa, cioè la figura, almeno nel nostro modo di concepire la coreografia, il corpo si tramuta forse in figura, la perde, diventa ectoplasma e quindi tutto il nostro lavoro alla fine è per generare una nuova specie, una sorta di nuovo essere. Anche perché quelle di Warburg sono forme significanti, eterne e universali. Quindi la chiave di questo spettacolo è attraverso il ritmo del corpo umano che vuole scandire nuove immagini e suggestioni magiche che arrivano a diventare eterne. Questa potrebbe essere certamente anche una lettura, ma se si dovesse vedere l'arte del 400 che Warburg poi mette nel suo studio e nella prospettiva, diciamo, di una sorta di collezione, come lui diceva, di ricordi dell'antichità, credo che si perderebbe forse di vista. Quindi non si parla di archetipi o forse di simbologie universali, quanto un desiderio di poter togliere quasi a queste immagini pur fantastiche, se pensiamo alla Venere del Botticelli che lui prende in analisi approfondita, ecco, diciamo, togliere a queste immagini una sorta di membrana che le avvolge, forse una fodera, per mettere in rilievo quello che è la propria natura. Forse il concetto, diciamo, è un concetto che sì, rimanda sempre a Freud, ma forse più a Lacan, di après-coup, quindi il colpo dopo. Quello che avviene in origine non è mai lo scatenante, forse il sintomo nasce da qualcosa che avviene più tardi, insomma il trauma non nasce dall'immagine che lo scatena, nasce più tardi. Quindi non so se si può parlare, almeno io non intravedo una universalità, una ricerca di una universalità, queste famose Fatos Formae potrebbero venire anche di Warburg, potrebbero anche venire in qualche modo così confuse forse con questo tentativo, ma alla fine c'è una ricerca di non tanto di essenza, però proprio delle consistenze anche minimali che hanno poi creato le immagini anche fantastiche che nello specifico il nostro Rinascimento sul Ciada. Rinnoviamo l'appuntamento a giovedì 2 dicembre, Atelier Simi, via San Vitale 69 alle 19:30. Io ti ringrazio per averci dato questo spazio e ti Grazie a saluto. voi. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao.